Chi sono? Da dove vengo? Sono Antonin Artaud. E che io lo dica come so dirlo, immediatamente vedrete il mio corpo attuale andare in frantumi e ricomporsi sotto 10.000 aspetti notori. Un corpo nuovo. E non potrete dimenticarmi mai più. Ho trascorso 9 anni in manicomio. Mi hanno curato con una terapia che non ha mai cessato di disgustarmi. Questa terapia si chiama elettroshock. Consiste nel sottoporre il paziente ad un bagno di elettricità per fulminarlo, scorticarlo nudo, esporre il suo corpo in ogni sua fibra al passaggio della corrente, venuta da un luogo che ignoro, per giungere dove non è. Dove non dovrebbe essere pur essendo là e dove ti morde le carni. È una scarica che sale e che scende, chiamata da voi terapia. Una cura barbara per ogni essere da voi giudicato malato di mente. Solo due chiodi sono fissati sulle tempie del paziente. Blocco di coscienza, perdita di memoria, stato di caduta. Pallore, rossore, occhi stralunati, annegati nel sangue. La persona è ridotta a un fantoccio, uno straccio, in una pozza di fango e di escrementi. 135 volts, durata 1 minuto, prima fase. 135 volts, durata 2 minuti, seconda fase. 135 volts, durata 3 minuti, la terza fase. I muscoli del volto entrano in una contrazione spasmodica. Il tronco e gli arti si sollevano. Il cervello, un guscio vuoto. E sono 10, 100, 1000 anni di vita che mi hanno di fatto tolto. Ma non ci siamo ancora. disteso e legato con cinghie per evitare rischi di fratture, un tampone di gomma fissato tra i denti per non mordersi la lingua, per non parlare, per non urlare. Mi hanno imposto 52 volte i tormenti dell'elettroshock affinché perdessi la memoria di me stesso, che voi trovate troppo cosciente. Tanti sistemi di tortura sono stati adoperati per far parlare il condannato. Su di me è stata usata la tortura, ma per farmi tacere. Questa sofferenza è entrata in questa orrenda terapia e di elettroshock, di sonno, di morte. E fu per me più che una tortura, perché ogni volta il venir meno di me stesso era il venir meno di me stesso fino all'annullamento. Ed ho bisogno di me stesso per essere e sentire che io esisto. Radiofonica. Là dove c'è la macchina c'è sempre l'abisso e il nulla. È un'interposizione tecnica che deforma e annichilisce quanto è stato fatto. Ecco perché non toccherò mai più la radio e mi consacrerò ormai esclusivamente al teatro, così come lo concepisco. Un teatro di sangue. Un teatro che ogni rappresentazione avrà fatto guadagnare corporalmente qualcosa tanto a colui che recita quanto a colui che vede recitare. Del resto non si recita, si agisce. Il teatro in realtà è la genesi della creazione. Questo si farà. Poi ho appena avuto una visione questo pomeriggio. Ho visto coloro che mi seguiranno e che non hanno ancora completamente un corpo, perché dei porci come quelli di ieri sera mangiano troppo. C'è chi mangia troppo e altri che, come me, non possono mangiare senza sputare. Il fatto grave è che sappiamo che oltre l'ordine di questo mondo ce n'è un altro. Quale? Non lo sappiamo. Il numero e l'ordine delle supposizioni possibili in questo ambito è appunto l'infinito. E che cos'è l'infinito? Non lo sappiamo. È una parola di cui ci serviamo per indicare l'apertura della nostra coscienza verso la possibilità smisurata, infaticabile e smisurata. E che cos'è la coscienza? Non lo sappiamo. È il nulla. Un nulla di cui ci serviamo per indicare quando non sappiamo qualcosa. Da quelle parti non conosciamo e allora diciamo coscienza dalla parte della coscienza, anche se esistono 100.000 altri aspetti. E allora? Sembra che noi la coscienza sia legata al desiderio sessuale ed alla fame, ma potrebbe benissimo non esservi legata. Si dice, si può dire, c'è chi dice che la coscienza è un appetito di vivere. E accanto all'appetito di vivere c'è l'appetito del nutrimento che viene subito alla mente. Già, è come se non ci fossero persone che mangiano senza avere alcuna forma di appetito, eppure hanno fame. Perché anche questo è possibile, avere fame senza appetito. E allora? Allora, lo spazio della possibilità un giorno mi fu dato come un grande peto che farò. Ma nello spazio, nella possibilità, sapevo esattamente che cosa fossero e non sentivo il bisogno di pensarci. Erano parole inventate per definire cose che esistevano o non esistevano dinanzi all'urgenza pressante di un bisogno, quello di sopprimere l'idea, l'idea e il suo mito, e insediare al loro posto la manifestazione tonante di questa necessità esplosiva. Dilatare il corpo della mia notte interna, del nulla interno del mio io, che è notte e niente, in riflessione, ma che è affermazione esplosiva. E c'è qualche cosa a cui far posto? Il mio corpo. E ridurlo davvero a questo gas fetente, il mio corpo. Dire che ho un corpo solo perché ho un gas fetente che si forma dentro di me. Non lo so, ma so che lo spazio, il tempo, la dimensione, il divenire, il futuro, l'avvenire, l'essere, non essere, l'io, non io, sono niente per me. Però c'è una cosa che è qualcosa. Una sola cosa che sia qualcosa e che sento che vuole uscire. La presenza del mio dolore, del corpo. La presenza minacciosa e incessante del mio corpo. E per quanto mi si incalzi con delle questioni e per quanto io le respinga, c'è un punto in cui mi vedo costretto a dire no! Questo punto lo si raggiunge quando mi si opprime, quando mi si incalza e mi si spreme fino all'espulsione da me del nutrimento, del mio nutrimento e del suo latte. E che cosa resta del corpo? Resta che vengo soffocato. Si è fatta pressione fino a soffocare in me l'idea di un corpo e di essere un corpo. Ho sentito lo sceno e ho scorreggiato di stragione e di eccesso e della rivolta del mio soffocamento, perché mi si opprimeva perfino nel mio corpo, fino nel corpo. Ed è allora che ho fatto saltare tutto in aria e che il mio corpo non si tocchi più. Che il mio corpo non si tocchi più! Ma se sono poeta o attore, non lo sono per scrivere o declamare poesie, ma per viverle. Quando recito una poesia non è per essere applaudito, ma per sentire corpi di uomini e donne, e dico corpi, tremare e volgersi all'unisono col mio.